chi s'accontenta gode. Ma di chi dobbiamo accontentarci noi? Solo di Dio. Perché il resto non ci può accontentare pienamente. Basti pensare come durano poco le cose per capire che tutti e tutto non ci può pagare. E quando tutti e tutto ci lasceranno, noi spiccheremo il volo, ci immergeremo in Dio, tutt'altro che impoveriti. Diranno: è morto il povero tale, è morto il povero tal'altro. Noi in Italia, davanti al nome del defunto, mettiamo sempre povero, povero. È morto il povero Tony, è morto il povero Piero, è morto il povero... Povero corpo, ma ricca l'anima. Su una tomba di un ragazzo qui di Bosco ho letto: sei tornato a Dio, Giancarlo, ricco del tuo dolore, ricco, ricco. Era morto fra le mie braccia quel ragazzo, campione dei campanili alpini, ragazzo, pieno di grazia. Il Signore era con lui. Papà e mamma, i familiari piangevano, lui solo non piangeva. Come vedesse già qualcosa di più bello che i campi di neve e qualcosa di più caro che papà e mamma, ricco del tuo dolore. Quando noi saremo ricchi di grazia, di santità, morremo come Domenico Savio a 15 anni, manco un mese. Papà, non voglio vederti piangere. Oh, che bella cosa io vedo mai. E così terminava i suoi giorni, pieno di grazia. Il Signore era con lui. Chi s'accontenta gode. Accontentatevi, godetevi, godetevi Dio, godetevi Gesù Cristo. Dio fatto nostro cibo nell'Eucaristia, nostro compagno di viaggio, nostro confidente, nostro tutto. E il resto non vi disturberà per niente. A chi Dio basta, tutto basta. A chi Dio non basta, basterà mai niente. A chi Dio basta, tutto basta. Aveste trovato ieri sera a tavola, anziché un buon piatto, un buon secondo, un frutto, aveste trovato una fetta di polenta, un po' di formaggio, un bicchiere d'acqua fresca, sareste stati ugualmente contenti perché eravate pieni di Dio. A chi Dio basta? Tutto basta. Il resto casomai è contorno, contorno. A chi Dio non basta, non vi possono bastare i cibi più squisiti, le gite più lunghe, le partite più interessanti, gli affari più ben riusciti. No, chi s'accontenta gode. Ripeto questa parola, suggeritemi da un nostro collaboratore, falegname, papà di famiglia, che non ha vita tanto facile, che combatte per poter vivere, eppure... un uomo equilibrato, di animo uguale. Io, padre, sto a questo mio programma. Chi s'accontenta, gode. Ma è un uomo di preghiera. È un uomo che non perde mai la messa la domenica. È un uomo che prima di incominciare il lavoro affida a Domine Dio i suoi compiti, il lavoro, perché tutto proceda bene. Affida a Dio, alla provvidenza di Dio, la moglie, i figli. E non ne ha pochi, ma non l'ho mai visto inquieto, e lo conosco da tanti anni. Suo programma, buono per tutti, chi s'accontenta, gode. Chi non s'accontenta, non è mai contento, e non può godere. Gode chi s'accontenta di Dio, perché Dio è tutto. Consegniamoli le chiavi di casa, mettiamo nelle sue mani le nostre mani, lasciamoci guidare da Dio, lasciamoci amare da Dio, proteggere, custodire, guidare, passo, dietro passo. Chi si accontenta, gode. A chi Dio basta, tutto basta. A chi Dio non basta, niente basterà mai.